sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Suora, non è vero che gli animali non sono intelligenti. Io, quando guardo il mio cane negli occhi, lo vedo che è intelligente, meno intelligente di me, però intelligente lo è. Io lo vedo che lui pensa, sogna e tutto quanto. Sono Paolo, vivo a Villanova d'Albenga, provincia di Savona in Liguria. Sono felice papà di 3 figli, la più grande ha 17 anni, un'altra figlia di 14, nuovo arrivato che ha solo 4 mesi. La mia professione è nell'ambito delle piante ornamentali, commercializzo e produco piante ornamentali all'ingrosso. Quando ho letto la storia di Paolo mi è venuto in mente innanzitutto un periodo della mia vita che vi racconterò più tardi dopo aver letto e raccontato la sua storia, e mi è venuto in particolar modo in mente George Carlin. George Carlin era un comico americano piuttosto conosciuto e piuttosto famoso, che è diventato famoso anche quando qualche comico italiano lo ha imitato. Purtroppo mancato nel 2008, era un comico straordinario che parlava della realtà e la rendeva non solo divertente, ma la allargava, la apriva e te la faceva vedere. E mi ricordo che proprio mi è venuto in mente lui perché in un periodo della mia vita in cui io credevo di essere una cosa che in realtà non ero, guardando quel suo monologo capii che tutta quella mia sensazione di essere un cittadino per bene, molto attento all'ecologia, al riciclaggio, eccetera eccetera eccetera, in realtà era una cosa che semplicemente mi stavo raccontando. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi Siete Qui. Noi raccontiamo storie, lo facciamo tutti i giorni, oggi raccontiamo la storia di Paolo che parla esattamente di un argomento che è piuttosto spigoloso, è l'idea che ci facciamo di noi stessi. L'idea che ci facciamo di noi stessi, che di solito parte da basi piuttosto solide, che sono delle evidenze che ci stanno intorno tutti i giorni, no? Che ci fanno sì che noi immaginiamo che siamo o delle persone di un certo tipo o di un altro tipo, o molto intelligenti o molto poco intelligenti, no? Dipende da quanta stima e autostima si abbia di se stessi. Poi di solito è il tempo che lavora e fa sì che quella idea che noi abbiamo di noi in qualche modo venga smontata. 349-238-6666. Se avete ben presente il momento in cui avete detto: ah, ma aspetta un attimo, ma io non è che sono proprio così, forse mi sbagliavo, forse me l'ho fatta un'idea sbagliata di me, un evento, un avvenimento, qualcosa che vi è capitato, una persona che avete incontrato che l'ha fatto capire, o magari anche, perché no, un monologo di George Carlin. 349-238-6666. Partiamo da un avvenimento molto preciso. Paolo era un ragazzino, era a scuola e si era convinto di essere il più figo di tutti, e poi in realtà non era così. Asilo Santa Maria di Misericordia. Sono le 3 del pomeriggio circa. La suora ha disposto le seggiole a cerchio. Sono gli anni del metodo Montessori e anche le suore sono in vena di esperimenti. Ci sediamo tutti, siamo composti e un po' intimoriti dalla penombra. La suora è giovane, non brutta. È quel tipo di suora che noi bambini moriamo dalla voglia di vedere come sono i capelli là sotto. Chi dice lunghi e biondi, chi corti e neri, chi sostiene che le suore lo sanno tutti che si rapano a zero. Io non lo so come ha i capelli, so solo che adesso ha iniziato a parlare e nessuno di noi capisce dove cavolo vuole andare a parare. La lezione improvvisata verte sulla differenza tra uomini e animali. L'animale non ha anima, l'uomo invece sì. L'animale segue l'istinto, l'uomo invece può avvalersi della ragione e della fede per controllarsi. L'uomo è intelligente, l'animale no. E questa cosa qua non mi quadra. Mi guardo intorno, tutti zitti ad ascoltare, però non mi convince, perché nessuno parla. Se non vado errato era l'ultimo o il penultimo anno dell'asilo, però ero talmente piccolo che non ricordo più esattamente, avevo praticamente 4 anni e mezzo, vicino ai 5, insomma prima ancora della scuola elementare. Non sono mai riuscito a vedere i capelli della suora, è una curiosità che resterà per sempre, ma penso che ci siamo passati in tanti, insomma, a tenerci questa curiosità. A quel punto parlo io. Suora, non è vero che gli animali non sono intelligenti. Io quando guardo il mio cane negli occhi lo vedo che è intelligente, meno di me certo, però intelligente lo è. Lo vedo che lui pensa, sogna, tutto quanto. Lui segue solo il suo istinto, dice lei. Ma io non ci credo. Lei mica lo conosce, il mio cane. Prima di sposare Dio era meglio se guardavi un cane negli occhi. Questo lo penso, ma non glielo dico. E penso anche che i miei compagni sono dei cretini, perché nessuno può credere che uno sveglio come Dio ha fatto solo gli uomini intelligenti e gli altri animali invece li ha fatti come robot comandati dall'istinto. Sai che noia che gli veniva al Padre Eterno a guardare un mondo così tutto il tempo per l'eternità. Così io per 40 anni ho pensato di essere stato fin da piccolo molto sveglio, perché a 4 anni sapevo già articolare discorsi molto complessi e sviluppavo già un pensiero autonomo e capacità riflessive, secondo me, sopra la media. La vita ha smentito abbastanza queste presunzioni che si hanno con l'entusiasmo giovanile, quindi insomma in realtà mai ha confermato questa mia presunta specialità. Insomma, andando avanti nella vita ti accorgi di essere alla fine uno dei tanti e bisogna accontentarsi, insomma. Adesso però mi viene il dubbio che tutta quella cosa con le sedie in cerchio e il discorso sull'intelligenza e sull'istinto, la suora l'aveva messa in piedi perché aveva beccato un bambino e una bambina che si guardavano il pisellino e la patatina l'un l'altro nel cortile. Sì, deve essere proprio andata così a pensarci bene. E io ci ho messo 40 anni a capirlo. E comunque non so gli altri, ma sicuramente il bambino e la bambina erano già parecchio più svegli di me. Afterwards I found my face in the trash. Really at the core of it, it wasn't so bad. Never leave your mother's womb unless you wanna see. Questa appartiene a una di quelle fotografie, quelle che ci ha mandato Paolo e che trovate sul nostro sito in questo momento. È una di quelle fotografie, secondo me, tra le più belle che ci possono fare. Perché non stiamo guardando, perché non ce ne accorgiamo, anche se sappiamo che c'è una macchina fotografica, evidentemente, perché è scattata molto da vicino. Paolo sta guardando verso il basso, forse suo figlio, forse qualcosa che c'è, o forse il suo cane, non lo so. E sta sorridendo proprio quasi con le pieghe sugli occhi. Pronto Paolo, buongiorno. Ciao Matteo, ciao. Come stai? Bene, bene, sono in ufficio, al lavoro, mi sono preso una pausa. Scusami, partiamo subito da lì, tu parlavi di piante ornamentali in apertura del programma. Sì, sì, produciamo, vendiamo, commercializziamo piante ornamentali. Ma cosa significa esattamente? Ma ad esempio in questo momento la stella di Natale, per fare un esempio, però abbiamo la gamma completa, insomma, abbiamo cioè, quindi servizio. Non, sei un fiorista più o meno? Un grossista. Diciamo che i miei clienti sono i fioristi, sì. Abbiamo un'azienda che vende solo all'ingrosso, comunque sì, siamo nell'anello precedente al fiorista, quindi, nella filiera. Quindi hai adesso lo dico malissimo, dei campi, degli orti, dei prati, sì. Non so come si chiamano. Delle serre, vivai, giustamente, grazie a me. Dei vivai, perfetto. Sì, grazie sì. Per essere venuto in soccorso. Io ero fermo a prati e pascoli. Era un po' Heidi, diciamo, la mia immagine. Un po' bucolica, sì, un po' meno sì. Bucolica. Un imbecille. Invece niente, invece abbiamo delle serre e dei vivai, banalmente. Quante, sì. E parto subito con l'altra domanda da scemo. Quante piante coltivi? Ah, qualche decina di migliaia a stagione, diciamo, poi ne commercializziamo ancora altrettante o anche di più con un'azienda commerciale che abbiamo anche, siamo io e mio fratello in società, è una ma l'avete... di famiglia, insomma, esatto. Ereditata. Non l'avete aperta voi, ci siete entrati sostanzialmente l'abbiamo di famiglia. L'abbiamo ereditata di famiglia, poi l'abbiamo anche un po', insomma, sviluppata, ingrandita, la nostra parte la stiamo facendo. Bravo, nel senso che siete sui social network, di solito i figli dei grandi imprenditori, ma adesso abbiamo una grande operazione di marketing, di digital marketing. No, insomma, siamo un po' più rustici. E come va il business? E poi la smetto con queste domande che sembro Barisoni però in jeans. Guarda, diciamo che siamo in piedi, i fornitori li paghiamo puntualmente, va già bene così. Benissimo, siamo, benissimo. Siamo in piedi, dai. E mi fa piacere. E invece apriamo questa nota dolente, Paolo, che riguarda tutti noi in realtà. Chiunque non sia un genio, sostanzialmente tutte le persone che vivono su questa terra, a un certo punto si accorgono che, vabbè, ma siamo tutti uguali, siamo come tutti gli altri. Non siamo proprio dei molto più sgamati degli altri. Questa è un'illusione che mi sono fatto per un po' di anni. E la suora in qualche modo ti ha aiutato però a capirlo? Sì, è vero, sotto sotto è stato un episodio che stranamente ricordo con precisione, risale a un'età in cui di solito si ricorda poco in quell'età. Invece questo episodio è sempre stato limpido nella mia memoria, però l'illuminazione è arrivata con 40 anni di ritardo. Ma tra l'altro non ho capito come ha fatto arrivarti questa illuminazione, nel senso che hai semplicemente messo insieme le due cose, i due bambini nel cortile e la suora che faceva il discorso. In realtà mi è arrivato scrivendo, perché per hobby mi capita di scrivere dei diari, di scrivere, insomma, mi piace scrivere anche dei piccoli racconti, delle cosine così. E volevo raccontare questo episodio semplicemente perché mi era rimasto impresso, ma non ci trovavo nessun senso. Okay. mentre scrivevo, il senso è arrivato, insomma, mi ha aiutato la scrittura. Insomma. Tra l'altro non hai per niente accento ligure tu, Paolo. Proprio sì. Camuffando. Adesso mi scappa qualche imprecazione. Di che zona sei? Del Ponente o Levante? Ponente, sei di Albenga, giusto? Albenga, sì. Albenga, che è una città nota dalle mie parti, cioè nel Novarese, nel Basso Piemontese, perché si faceva il CAR ad Albenga, i militari. Si faceva. Avevamo due caserme, entrambe dismesse, abbandonate, in un modo un po' penoso. Ah, non esistono più, proprio non ci sono, smantellate. Sono smantellate entrambe, adesso il Demania deve trovare una soluzione. Per una pare si sia trovato e si farà un polo scolastico, così rimaniamo in tema. In una delle caserme verranno un polo scolastico, quindi rimaniamo nel tema delle scuole. Tra l'altro qualcuno mi scrive: non sembri Barisoni, sembri la finanza, quindi evito di continuare a farti domande. L'ultima domanda sulle piante, i fiori, e qua ritorno al mio linguaggio da imbecile, perdonami, com'è che si chiamano? Ah, piante ornamentali. Piante ornamentali. Qual è la pianta che va più forte in assoluto? Tipo il Ficus Benjamin? Mia madre mi ha regalato momento la pianta che genera più fatturato nel mondo è il Phalaenopsis, che detto in volgare è? Un'orchidea, una varietà di orchidee. L'orchidea. È la pianta in assoluto più venduta al mondo, non come numero ma come fatturato globale. Perché costa tantissimo. Abbastanza. Però è anche delicata, giusto? Ha avuto molto successo perché ha una durata elevatissima in appartamento, quindi è una pianta elegantissima, bellissima, e quindi il successo benissimo globale, crescono. Parla uno che ha esultato per due giorni dopo aver messo l'impianto di irrigazione sul proprio terrazzino e poi è riuscito a fare morire il rosmarino, che non è facile, anche nonostante l'aria di Milano. Paolo, ti ringrazio per la chiacchierata e perdonami la totale ignoranza al riguardo della tua materia. Ne sai quanto io ne so di radio, insomma. Ma mi pare che tu ne sappia di più, sinceramente. Grazie ancora, in bocca al lupo. Ti saluto, tante ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Perché la convinzione di essere in un modo invece che in un altro è di per sé una forzatura. Cioè dire, io sono uno che, è un modo un po' ingenuo di definirsi. È una debolezza in cui tutti prima o poi incappiamo. Ci cominciamo di essere in un modo fino a quando un qualche episodio non ci sbatte in faccia che forse ci siamo convinti un po' troppo e che qualche volta mettere in dubbio le nostre posizioni ci farebbe risparmiare qualche brutta figura. Qualche anno fa, ad esempio, ero convinto di avere un senso civico molto al di sopra della media. Avevo iniziato prendendo molto seriamente la raccolta differenziata. Toglievo addirittura la carta dai barattoli della marmellata a quelli di vetro. Sapevo tutti i punti di raccolta di medicinali scaduti, pile esauste e lampadine al neon del mio quartiere. Il passo ulteriore, per spostare un po' più in su l'asticella del mio senso civico, è stato quello di telefonare a Isoradio ogni volta che se ne presentasse l'occasione, dall'avvisare se c'erano animali per strada, code improvvise, restringimenti di carreggiata. Sfioravo la pedanteria quando guardavo male chi non timbrava il biglietto sul tram e deprecavo ovviamente chi non raccoglieva le cacche dei propri cani dalle strade sul Naviglio. Mi consideravo uno con un senso civico al di sopra della media e mi piaceva essere quasi un modello da imitare. All'epoca, sotto la mia finestra della casa in cui vivevo, al di là della strada, c'era un parchetto, in fondo al parchetto una piccola roggia. Sull'argine avevano piantato canne di bambù e qualche nocciolo. E tutte le volte che ci vedevo incastrato dai rifiuti, imprecavo contro l'inciviltà degli esseri umani. Una mattina mi era sembrato di vedere su quell'argine, in mezzo alle frasche, un cane randagio che si riposava. Ma quella sera, dopo molte ore, quando tornai a casa, il cane era ancora là. Nei giorni successivi continuavo a vedere quella macchia di pelo marrone in mezzo alle foglie. Quindi mi convinsi che quel cane era vittima di un pirata della strada e in preda allo spavento era andato a nascondersi su quell'argine, o magari fosse in agonia o chissà addirittura già morto. Ovviamente, al dispiacere per il povero cane, ci ho messo sopra anche il doppio carico dell'indignazione verso i pirati della strada, oppure per l'allarme per la possibile diffusione di germi generati dalla sua putrefazione. Il mio senso civico è a mille quando, tutto fiero, ne parlo ai vicini e prendo la decisione che la cosa giusta da fare è telefonare ai pompieri e farli intervenire. Quando arrivano faccio il maestro di cerimonia, ovviamente, do loro il benvenuto, spiego la situazione e loro si avviano verso il cane. Probabilmente se li avessi avvisati sarebbero arrivati direttamente dall'altra parte della roggia, ormai però è troppo tardi per spostare tutto, quindi guadano il corso d'acqua per raggiungere la carogna. Sono imbragati, hanno una corda. Io sto raggiungendo il mio trionfo quando il pompiere capofila prende con il suo enorme guantone da pompiere, ovviamente, il cane per una zampa, lo solleva sopra la sua testa e, guardando la folla che io ovviamente avevo radunato, urla a tutti: è un peluche! Insomma, alla fine della storia di Paolo ho capito che, primo, siamo tutti curiosi riguardo alla pettinatura delle suore. Secondo, la maestra non ha sempre ragione. Terzo, a 4 anni non si è ancora capaci di ragionamenti complessi. Quarto, bisogna sapere distinguere il confine tra senso civico e pedanteria. E quinto, i peluche di oggi somigliano sempre di più a degli animali veri. Quando è che avete capito che non eravate quello che pensavate? Giulio mi scrive sempre: io sono convinto di essere un genio, purtroppo sono l'unico a pensarlo. E poi arriva un messaggio che non è firmato, è anonimo, ma me lo immagino mandato da un ragazzo che frequenta ancora una scuola, perché dice: l'ho capito oggi alla verifica di matematica. E quello forse è uno dei modi più traumatici, perché c'hai proprio un numero davanti. Diverse persone mi ringraziano per la lezione di allevamento di piante che siamo riusciti a dare insieme a Paolo. Grazie a Paolo Corleoni di botanica, giustamente. Botanica for Dummies, dov'è che coltivi le tue piante? Nei prati. Me lo immaginavo nei prati sopra al Benga, delle sterminate prati, appunto, pieni di fiori e di piante. Invece no, serre, giustamente. Grazie a Paolino Corleoni, Miriam Lucchetti, Tiziano Bonini, grazie a Mauro Pescio, ovviamente, grazie soprattutto a Paolo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Gianni, abito Usmate, un paesino della Brianza. La storia di domani è la mia e parla della confessione di un bandito. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.